Eccoci qua, bentornati e bentornate alla Fuga del Gatto, puntata di domenica 17 febbraio e domenica di sole, soleggiata. Spero che siate tornati in tempo a casa giusto per ascoltare la puntata di oggi della Fuga del Gatto. Beh, in realtà il sole è tramontato, quindi insomma non vi perdete niente, vi è concesso ritornare a casa e stare un po' tranquilli ad ascoltare il ripiglino della domenica, ovvero la Fuga del Gatto, come ormai molti di voi sapranno. Vi dico, prima di dimenticarmelo, i social Wombat, ovvero il sito ovviamente wombat.noblogs.org e la casella di posta, wombat@insiberia.net, e anche ovviamente vi ricordo la nostra frequenza sulle onde mediocri, la 1359 AM, se siete fortunati o fortunate da essere raggiunti dal nostro segnale potete ascoltarci anche attraverso le vostre radioline. Beh, in più mi sento di potervi dire che abbiamo fatto delle migliorie proprio sulla la qualità della ricezione del segnale sulle onde mediocri, non tanto sulla ricezione, in effetti quella probabilmente è uguale, ma dovreste sentire tutto molto più bello, un suono molto equalizzato, molto meglio, insomma. Le onde mediocri, forse lo saprete, sono un po' vintage, hanno questo suono un po' pieno di medi, un po' ovattato, ma un po' dovremmo averlo migliorato. Quindi vi sprono a riascoltare, se è un po' che non lo fate, anche le onde mediocri, ascoltarci in onde medie e insomma magari scoprirete che ci sentite abbastanza bene. Beh, queste erano un po' le informazioni tecniche importanti che vi dovevo dare. Vi ricordo anche, già che ci sono e poi basta con le informazioni, ma vi ricordo che abbiamo fatto grandi cambiamenti al palinsesto e ci sono delle nuove trasmissioni, ve ne sarete accorti, e abbiamo rintuzzato, come si dice, il palinsesto in maniera un po' migliore, in modo da lasciare meno spazi liberi, meno bobina. Dovreste insomma sentire la diretta delle varie repliche oppure le dirette stesse, insomma un po' più frequentemente. Tutto ciò lo stiamo facendo anche per incoraggiarvi ad ascoltarci in diretta, perché è il modo che ci rende più felici, ecco, perché il podcast è bello, è facile, è comodo per voi che ci ascoltate, ma noi che siamo qui a fare le nostre dirette ci sentiamo soli se non ci ascolta nessuno mentre lo facciamo. Quindi ascoltateci in diretta, perché il bello della radio è proprio quello, accenderla e sentire che cosa c'è, anche se non so bene cosa troverò. E bene, dopo che vi ho fatto tutto questo pippone, abbiamo finito con le esortazioni e le quisquiglie tecniche e possiamo arrivare tranquillamente alla puntata di oggi, in solitaria come tutto febbraio. Vi avevo già avvertito e ho avvisato, la Virge, la mia socia, non c'è in questo mese e io sono da sola, ma anche se vi avevo minacciato, oggi non mi butto sulle baroccate, sulle cose antiche come piacciono a me, ma tutt'altro, mi butto su proprio qualcosa di completamente diverso. Oggi parliamo di Arvo Pärt, un compositore ben più moderno, ben più contemporaneo, e ancora vivente peraltro, e con la sua meravigliosa barba lunga, e di cui possiamo parlare oggi un po' nel dettaglio, anche se vi svelo che avevo delle cose molto interessanti e succulente su un bellissimo libro che ho bellamente lasciato a casa, e quindi arrangiate queste cose qua, non ve le potrò raccontare, vi beccherete almeno il resto. Arvo Pärt è nato mercoledì 11 settembre, è importante sapere i dettagli, del 1935 a Paide, che ovviamente, come sempre, mi scuso per la pronuncia assolutamente grezza e improbabile delle lingue che non so, città dell'Estonia, il capoluogo della contea di Jarva. La madre e il padre è un omone muscoloso, pare simile a un pugile o un antico gladiatore, erano entrambi attori in un piccolo teatro. La famiglia si trasferì molto presto a Rakvere, una città più grande, a mezza strada tra Tallinn, la capitale dell'Estonia, che al tempo, dopo il 1918 e prima del 45, era uno stato indipendente come le altre due nazioni baltiche, la Lettonia e la Lituania. E quindi stava, dicevamo, questa città in cui si trasferì la famiglia di Arvo Pärt a metà tra la capitale dell'Estonia, Tallinn, e quella che allora si chiamava Leningrad, che oggi in realtà, come sappiamo, ha ripreso il nome di San Pietroburgo, San Petersburg, anzi. A Rakvere cominciarono gli studi di pianoforte e di musica in generale e Arvo Pärt cominciò a diventare un musicista. Lo vedremo, il suo percorso è stato un percorso ed è tuttora un percorso di ricerca, di studio, molto in divenire, ma iniziamo subito da qualcosa. Vi dico già da subito che gli ascolti di oggi sono assolutamente confusi e caotici, non sono in ordine temporale, ma così, li ho messi un po' come mi pareva e come mi aggradava, tanto su da sola che mi dice niente. Inizio quindi, ci ascoltiamo subito, subito, subito, un primo ascolto già per capire un po' di cosa si tratta, perché magari Arvo Pärt non è un compositore che è noto proprio a tutti, e, beh sì, ovviamente molto famoso, ma magari tra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici wombati non è proprio notissimo, ecco, non stiamo parlando di Wagner o di Beethoven effettivamente. E quindi, giusto per capire di cosa stiamo trattando, vi faccio ascoltare un primo brano, una prima composizione, Orient and Occident, appunto sempre ovviamente di Arvo Pärt, circa 7 minuti e poi continuiamo a raccontare di questo compositore estone. insomma, questo era. Stava finendo, sì, scusate, era Orient and Occident, Arvopart. Inizialmente Arvopart imparò a comporre con il sistema classico basato sugli insegnamenti di Korsakov. Solo in seguito, in realtà, approfondì lo studio sulla dodecafonia e della serialità post-weberiana, che lo condusse poi a sperimentare i sistemi compositivi dell'avanguardia dell'epoca. Era abbastanza evidente, insomma, perché quello era un periodo in cui o andavi da una parte o andavi dall'altra, insomma, le ipotesi erano due. E lui scelse all'inizio, appunto, di studiare le nuove avanguardie, le nuove tecniche di composizione anche che si stavano facendo strada, però a un certo punto Arvopart giunse alla conclusione che la sua convivenza con la tonalità lo stava portando a un vicolo cieco. Questo proprio disse lui. Così si prese una sorta di pausa, una bella lunga pausa, in cui fondamentalmente si bloccò un po', non compose o perlomeno non fece uscire nuove composizioni e si mise a studiare. Studiò il barocco e il canto gregoriano, ve lo rivogavo, ve lo immaginavate, cioè, vi ho fregato anche questa volta. Si mise a studiare appunto barocco e canto gregoriano, conducendo contemporaneamente una ricerca di semplificazione progressiva della sua musica allo scopo di eliminare il superfluo e l'esagerazione dalle sue composizioni. E poi dopo vedremo un po' meglio anche questo periodo che portò poi a una sua appunto nuova tecnica e a una creazione di un nuovo stile. Fondamentalmente, che si aprì con la pubblicazione nel 1976 del Cantus in Memoriam di Benjamin Britten, a cui lui si sentiva evidentemente di dovere moltissimo, e scrisse questa composizione molto precisa, molto rigorosa e al tempo, insomma, niente affatto banale, un po' originale, strana e particolare per il periodo. Questo stile di composizione lui stesso lo definì Tintinnabuli, una composizione costruita interamente su triadi e scale tonali, dove l'impiego della voce umana è molto importante, ha una certa importanza. Da quel momento la sua lunga carriera è stata dedicata al perfezionamento di questo suo metodo compositivo, che è quello che poi ancora adesso utilizza. Io direi che ci potremmo subito, subito ascoltare un altro brano, giusto per entrare ancora di più all'interno della poetica e della composizione di Arvopart, e questa volta un brano per violino e piano, Spiegel am Spiegel. Poi dopo ascolteremo invece un brano un po' più didascalico, un po' più precisamente, che spiega un po' meglio che cosa si intende con questo metodo, cioè questo stile che lui chiamò Tintinnabuli, che poi insomma andremo un po' meglio a spiegare. Ma intanto ascoltiamo quest'altro, Spiegel im Spiegel. Thank you. Thank you. Per farmi aiutare a raccontare meglio Arvo Part, la sua musica, visto che mi sono anche dimenticata a casa i miei libri, mi sono fatta aiutare da un articolo che scritto da Federica Di Bari dell'Università di Torino, che trovate nella sua versione integrale facilmente con una brutale e facile ricerca sul vostro motore di ricerca preferito sull'internet, un articolo che è intitolato Fiorellina nel non tempo. Indagine semiotica sulla spettualità della musica contemporanea. Un articolo, secondo me, molto interessante, molto beh, interessante sì da leggere, bello, e che dà degli spunti non banali sulla musica di Arvo Part, e che quindi vi leggo abbastanza integralmente, anche se in realtà l'articolo è molto più lungo, insomma, però vi ripeto, se vi interessa lo potete trovare facilmente in rete, potete leggervelo per intero, anche perché l'articolo tutto intero è un'analisi molto stringente su il brano Fiorellina, che noi tra l'altro andremo a sentire, ma tra un po'. Ma con questa scusa in qualche modo e anche abbastanza comprensibilmente non si ferma soltanto all'analisi del brano, ma racconta un po' meglio tutto il personaggio Arvo Part, come la pensa, come la vede, e tra l'altro con diverse sue citazioni, insomma, dove è proprio lui stesso a raccontarci il perché e il per come della sua musica. E quindi vi inizio a leggere un pochino da questo articolo. Arvo Part nasce in Estonia nel 1935, dopo gli esordi compositivi in cui il suo linguaggio seguiva il filone delle tecniche dodecafoniche e del collage. Collage effettivamente non l'avevamo citato prima, un'altra tecnica con cui si dilettò Arvo Part all'inizio, anch'essa molto interessante, che però poi abbandonò. Decide di prendersi, come dicevamo, un periodo di pausa dalla musica e dalla composizione, dedicandosi a lavori svariati e sottopagati come il tecnico del suono per la radio pubblica, che comunque io non lo butterei via come lavoro, ma vabbè, ma comunque Arvo Part poi ha fatto anche altro, ecco come dire. Il suo intento era quello di sviluppare un orecchio nuovo, in grado di poter cogliere l'essenziale della musica e ricondurlo all'ascoltatore nella sua semplicità. Questo dice Arvo Part: non mi importava niente delle frequenze alte o basse, della riduzione del rumore, volevo soltanto una linea musicale che fosse portatrice di un'anima, come quella che esisteva nei canti di epoche lontane, come è ancora oggi nel folklore, una monodia assoluta, una nuda voce dalla quale tutto ha origine. A proposito dei tintinnabuli che prima abbiamo citato e diciamo, abbiamo buttato lì una prima bozza di spiegazione o di racconto, a proposito di questo, per entrare un po' meglio nel dettaglio, Arvo Part stesso ci dice: in sostanza la concezione tintinnabuli si presenta come qualcosa di diverso da quello che accade. In genere, quando si comincia a studiare il pianoforte con la mano sinistra, che suona sempre lo stesso accordo, mentre la destra dipana una melodia. Cioè, scusate, l'ho letto veramente malissimo. Ve lo rileggo magari in un italiano tenendo conto, per esempio, delle virgole. Allora, dicevamo, si presenta come qualcosa di diverso da quello che accade in genere quando si comincia a studiare il pianoforte con la mano sinistra, che suona sempre lo stesso accordo mentre la destra dipana una melodia. Anzi, capisce meglio ora. Nel mio caso ci sono una melodia e tre suoni, ma ogni nota della melodia è accoppiata a uno di quei tre suoni secondo regole ben precise e naturalmente anche viceversa. Si originano ovviamente delle dissonanze inaspettate, ma c'è una logica nella melodia superiore, così come ce n'è una, sebbene più nascosta, nei tre suoni che l'accompagnano. Questa è la dicotomia melodica della quale dico che 1 più 1 uguale 1. Tintinnaboli dal latino campanelli, e prende origine questo nome dalle campane tubulari che aprono una delle due prime composizioni create da Arvo Part con l'utilizzo di questa nuova tecnica compositiva. La composizione che abbiamo già citato del 76, Cantus in memoria Benjamin Britten. Inizierei per inizierei un po', già siamo entrati direi abbondantemente nella poetica, nella musica di Arvo Part, ma a questo punto ve l'avevo anche un po' annunciato, ci ascoltiamo uno di questi famosi Tintinnaboli, lui proprio lo intitola così, in particolare Pari Intervallo, una composizione piuttosto breve, 6 minuti circa. In realtà le composizioni di Arvo Part non sono, insomma, tranne alcune. Sono spesso brevi ma intense, come dire. E quindi sentiamo subito questo tintinnabulo, pari intervallo. Thank you. quanto Bach e quanto monodia anche in questo Tintinnabulum. Cito sempre da Federica di Bari. Part si trova ad un punto di svolta nella sua carriera da compositore. Ha intrapreso un nuovo modo di concepire il tempo e lo spazio in musica, ma è ancora nella sua mente, matematicamente perfetto e melodicamente lineare nella sua semplicità. Riesce solamente a scrivere fogli e fogli di esercizi, prendendo salmi della tradizione letteraria e adoperando il metodo del Tintinnabuli per mettere le parole in musica utilizzando il sistema delle triadi. Ma una sola linea melodica, come aveva inizialmente pensato, non basta. Per quanto figura unitaria, non è una monade perfetta che basta a se stessa, necessita di un suo speculum che la completi, che dia esistenza piena alla formula 1 più 1 uguale 1. Introduce così la seconda linea melodica, scoperta che sua moglie, fedele compagna Nora Part, ci racconta così. Il momento in cui Arvo è arrivato all'inserimento della seconda voce potrei paragonarlo alla creazione del mondo. un certo grado di modestia. È stata un'enorme esplosione, una scoperta che non ha ancora esaurito il suo potenziale. Nella musica di Arvo la tensione necessaria è data da questa piccola sovrapposizione verticale. La melodia superiore si muove liberamente nello spazio tonale. La seconda voce, invece, si può muovere soltanto all'interno di tre suoni, sottolineando continuativamente una sola funzione, quella della tonica. Sopra si può prospettare un'ampia gamma di suoni, al di sotto c'è solo la tonica. Si viene così a creare una sorta di tensione tra le due voci, che sono sì complementari, ma anche polarizzate, come nell'elettricità il polo positivo e quello negativo. In effetti mi sembra un ottimo modo di descrivere anche quello che abbiamo appena sentito. Ora, abbiamo citato all'inizio Fiuralina, brano che poi dal là a poi l'articolo che vi sto leggendo, e quindi è venuto anche un po' il momento di ascoltarcelo, questo Fiuralina, che nonostante le sue due sole pagine di spartito è densissima di significati, ha avuto anche un'importanza non soltanto nella composizione e in chi l'ha creata, ma anche in chi l'ha ascoltata. Per esempio, leggevo che è stata, quando uscì nel 76, anche questa fu, quando uscì e negli anni successivi, insomma, fu apprezzata moltissimo, ascoltata moltissimo e soprattutto venne ascoltata da moltissimi malati di AIDS, malati di AIDS in fase terminale, che chiedevano di ascoltarla continuamente. Sempre citando dall'articolo di prima, Fiuralina si trova già nelle pagine di esercizi di Part, inespressa nel suo potenziale armonico. È dedicata alla figlia di un amico di famiglia, Alina, appunto, che neo diciottenne partiva alla volta di Londra per completare i suoi studi. La sua particolarità risiede nell'unione straziante di queste due linee melodiche, che donano ad ogni suono un esserci diverso l'uno dall'altro. Ogni suono è nel suo essere individuale, nel bisogno del compositore di, come dice lo stesso Arvo Part, concentrarsi su ogni singolo suono, così ogni filo d'erba sarà importante come un fiore. Bisogna vedere in queste piccole frasi qualcosa di più che solamente i tasti bianchi e neri. E probabilmente ora azzardo forse, ma in un con un Arvo Part che almeno in una parte iniziale della sua vita ha vissuto nell'Unione Sovietica, o perlomeno nell'Estonia dominata dall'Unione Sovietica, il concentrarsi sull'importanza dell'individuo non è proprio un concetto buttato lì, su cui non ha riflettuto. Ecco, evidentemente è abbastanza ovvia l'importanza che Arvo Part voleva riservare a questo concetto. Sentiamocela dunque Fiuralina e poi ci diciamo qualche altra cosetta sopra. Thank you. questa era Furalina, appunto. Part in un'altra intervista spiega che nell'orchestra militare ha scoperto di non avere la nozione del ritmo. Era sempre o in anticipo o in ritardo rispetto agli altri. Da lì iniziò a suonare ascoltando i suoi compagni di orchestra e seguendoli con la dovuta attenzione. Riusciva a stare nel ritmo imposto dal direttore d'orchestra. Ma fondamentalmente quello che importava non era avere il ritmo, ma il tempo. Arvo Pärt ha anche il suo tempo, cioè ha il suo tempo che, a differenza di tutti gli altri compositori, non impone né a chi ascolta né a chi esegue. Ed effettivamente, se a me torna questa definizione, queste parole tornano abbastanza, perché sembra una musica molto libera e molto rispettosa anche di chi ascolta. Ho costruito un piccolo edificio, una piccola architettura, dice Arvo Pärt per raccontare Fiorellina. A quella melodia ne ho quindi associata una seconda, seguendo le regole molto semplici dello stile Tintinnabuli, così che le tre note di una tonalità fissa, si minore, formano la melodia inferiore. Bene, questo era un po' un'infarinata, direi, perché in realtà di Arvo Pärt si potrebbero dire molte più cose, anche sulla vita, sulle cose che ha fatto, sulla visione che ha e sulle opere, le composizioni che ha scritto. Ce ne sono ovviamente moltissime, anche molto diverse, ma il tempo a disposizione è poco ed è tiranno. La puntata di oggi volge al termine, vi lascio però con un ultimo brano di Arvo Pärt, un brano secondo me bellissimo che è Fratres, forse l'ascolto più lungo di oggi, è circa 10 minuti, e con questo vi do una fine buona domenica se ci state ascoltando in diretta, oppure continuate insomma in quello che state facendo negli altri giorni in cui ci state ascoltando, o in replica o in podcast. E vi ridico, se vi siete collegati adesso, vi ricordo di dare un'occhiata al nuovo palinsesto di Radio Wombat, ricco di novità, di orari diversi, repliche più fitte e intense, e insomma, quindi rimanete aggiornati sui nostri cambiamenti, e noi ci riascoltiamo sempre su queste frequenze o su questo streaming su Radio Wombat domenica prossima, sempre intorno alle 6, e ovviamente sempre qua, sempre su Radio Wombat, è sempre alla Fuga del Gatto. Ciao ciao. Thank you.